Salve cari amici ascoltatori di Radio Big World, sono Pasquale e anche oggi parleremo di qualche cosa che può interessare e che penso che almeno incuriosisca. Mescolare acqua e vino era il titolo della rubrica, perché mescolare, contrariamente a quello che sembra, è la cosa che naturalmente si fa tutti i giorni, con tutte le cose e in tutto il mondo. Allora, anche oggi vi racconto come mescolare la fiducia e il ragionamento comporta dei vantaggi nella conoscenza e nella qualità della vita. Nella chiesa del mio paese, sopra l'altar maggiore, racchiusa in una teca preziosa, c'è la Madonna del Vero Latte. Tanti anni fa, questa Madonna era nascosta da una tenda di broccato che veniva rimossa per alcune ore quando i fedeli chiedevano o ringraziavano la Vergine per grazia ricevuta. Oggi l'immagine della Madonna è esposta con continuità alla venerazione dei fedeli. A metà del 1900, devota, intelligente e bella, abitava in una casa del paese la signora Nina, con tanto di servitù, di beni, mobili e immobili. Era una benestante. Annina era nata serva, lavorava nella casa patronale e, alla morte del signor padrone, questi l'aveva sposata. E la signora Annina gli aveva dato 4 figli, di cui 2 avevano intrapreso la carriera militare in marina e 2 in aeronautica. Quando lo storno 46 di Pisa faceva esecuzioni militari a bassa quota in Valdarno, all'udire il rumore sordo dei quadrimotori in arrivo, la gente guardava in su e appena si riusciva a leggere quel 46 che significava Pisa, ecco, allora tutti dicevano: «Lei citto dell'Annina!» E anche questo contribuiva a dare prestigio all'Annina nel paese. Passarono gli anni e anche l'Annina, seppur bella, ricca, famosa, cristiana e generosa con i poveri, ebbe le sue rughe e poi la morte la chiamò a sé. Seppur rimpianta da tutti, gli eredi Annina se n'erano fatta una croce della loro madre, perché nonostante fosse cittadina stimata e benefattrice con le mani bucate, aveva impoverito il patrimonio di famiglia. Avvenne allora, come si usava in quel tempo, che dopo 7 giorni dalla morte di Annina si celebrò una messa in suo ricordo. Sulla sinistra della chiesa era esposto un cartello dove si diceva: «In memoria di Annina». Si riferiva alla messa che si celebrava quel giorno in memoria di Annina. Sulla destra invece c'era un altro cartello che si riferiva alla evidenziatura, alla scopertura dell'immagine della Madonna del Vero Latte per grazia, eccetera, eccetera, come ricordate, dove c'era scritto «per grazia ricevuta». Quindi 2 cartelli, a sinistra celebrazione religiosa in memoria di Annina, a destra «per grazia ricevuta». Si dice che gli eredi, impoveriti dalla madre con le mani bucate, avessero speso per affiggere ambedue i cartelli. Ai tempi di Annina si credeva che rivolgendosi al parroco per far scoprire la Madonna si ottenesse il miracolo, la grazia. Oggi, che il malingegno per oscurare e ostendere il simulacro della Vergine non si usa più perché la Madonna, come dicevamo, è sempre scoperta, sappiamo che assieme alla fede, per avere l'aiuto celeste, ci sono anche le opportunità, in maniera che i disagi giornalieri, opportunamente adeguati alle esigenze delle conoscenze di oggi, arrivino a soluzione favorevole. Quindi, chi chiede a quella Madonna la grazia per la salute sua o di altri e l'ottiene, non lo fa perché quella Madonna quel giorno era stata scoperchiata, messa alla venerazione dei fedeli, ma lo fa perché assieme a quella fede profonda che ha nell'aiuto che viene dal cielo, ha unito anche quelle tecniche importantissime che sono le cure mediche, le cure cliniche, le diagnosi cliniche, e che aiutano e davanti a casi che una volta erano inguaribili fanno ritornare la speranza della vita e la certezza dei rapporti sociali con i nostri cari. Quindi, quando noi mescoliamo assieme la fede, cioè la fiducia nel nostro caso verso la Vergine, e utilizziamo la nostra ragione, che è quella che ci dice di prendere le medicine, di fare le cure radianti, di andare dal medico giusto per individuare la malattia e curarla, a quel momento, oggi, noi siamo vincitori. Buona giornata e alla prossima!